Buonasera, sono in linea? No, linea con la radio Bubù. Ma con chi cazzo deve essere in linea lei? Scusi, me lo spieghi. No, con chi deve... ho chiuso la radio. Ma scusi, ma chi dovrebbe... Sta parlando con me. Sono Cusani, qui c'è Parenzo. Qui c'è Parenzo. Perché non legge un libro? No, ma mi fa impazzire questa cosa qua. Perché non si legge il rapporto che l'Unione Europea ha fatto sullo stato di salute del governo di Orban? Sui diritti violati? Perché non legge? Aspetta, lei ha interesse a leggere il rapporto della Commissione Europea sui diritti di Orban, Roberto? Lei ha interesse? A me non me ne frega un cazzo proprio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Mi sento di ringraziare gli amici napoletani, perché vedete, con la loro voglia di vivere, con la loro gioiosità, hanno dimostrato per festeggiare una partita di calcio quanto sono assurdi i provvedimenti in essere a partire dai bambini con la mascherina. Davide Parenzo. E se ci costringono a scegliere vaccino sì o vaccino no, che sia chiaro, noi diciamo no ai vaccini, perché nel momento in cui ci togli la libertà di sceglierlo, se farlo a 2 mesi o 2 anni, se farlo a 60 anni o 70, se farne 1, 0, 10, a quel punto lì, tu che comandi il mondo e che ci stai guardando, sappi che noi attaccheremo i vaccini. Vaccini. Da casa Parenzo, David e Natalia Zevi avvengono anche cose belle nella vita. Buonasera Parenzo. Perché è ora di cominciare una narrazione diversa nei confronti anche del colossali imbrogli che sono stati costruiti anche intorno alla narrazione di questa falsa pandemia. Dico falsa pandemia perché quando conteremo i numeri alla fine dell'anno, i numeri dei morti generali, capiremo che questa narrazione è stata distorta non soltanto in Italia, è stata distorta a livello planetario, e credo che se qualcuno non riesce a portare una parola di verità, e io considero l'onorevole Meloni un leader assoluto della destra planetaria, non soltanto italiana. Meluzzi, chiudi, anche perché io non sono allora d'accordo con quello dicendo, anche perché no. Noi, Alessandro Primo. Perché è vero quello che dice il professor Meluzzi sul fatto che troppe cose non tornano. È vero che ci sono state troppe omissioni e terapie sbagliate, le responsabilità che vanno sbagliate individuate sulle falsità terapie che sono state sbagliate raccontate riguardo al coronavirus. Dica, dica, dica, parli, parli, dica. Beh, amico mio, non so se hai sentito, ti dico solo una cosa prima delle presentazioni ufficiali di questa sera: la Meloni, leader della destra planetaria, dice il signor Meluzzi, Monte Rosa 91 20 149 Milano, eccoci. Ovviamente Roma per l'ultima settimana in quegli studi, stavolta lo possiamo dire, potete andare sotto a trovare dopo la trasmissione, no, se volete, no, Indipendenza, Piazza Indipendenza, credo 23A, 23B, no, 23C, accanto c'è Che Banca, se c'è ancora, no, perché sa le banche, poi c'è l'ingresso del Sole 24 Ore, alle 21 circa vedete scendere una persona, da lì, David Farenzo, eccolo lì. Buonasera cari amici. E sarebbero tante cose da dire, ma è lunedì, sono molto stanco. Cazzo, sono... sei stanco? Ha appena iniziato la settimana. No, ma appena si accende, mi mettono quella scritta on air e parte la sigla. Io sono già depresso. Non per la sigletta che è meravigliosa, la copertina, ma sono già depresso per quello che accadrà. Ma dopo che ho sentito, noi, Alessandro Primo, primate della Chiesa, e dice in più che la Meloni è un leader planetario della destra, leader della destra a livello planetario. A livello planetario io dico solo una cosa: attenti, Giorgia toccaferro, cara Giorgia. Io mai avrei pensato che qualcuno ti volesse distruggere in questo modo. Io mai, la mia cattiveria non sarebbe mai arrivata a tal livello. Quella di Meluzzi che dice che sei una leader planetaria. Attenta, attenta Giorgia, attenta. Noi. Cioè, farlo sentire tutto per capire chi è. No, ancora. Farlo sentire tutto per capire chi è. Alessandro Prima. Ecco, perfetto. Al secolo Alessandro Meluzzi, primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala. No, primate no. Antico orientale. Vedi, hai detto una stronzata, si ferma. Antico orientale. Già detto. Però è bello far sempre sentire chi è. Ragazzi, vi annuncio che da questi microfoni inizierà una battaglia forsennata finché avremo forza, finché avremo voglia, finché avremo spazio. Contro quest'idea ridicola di alcuni esponenti della Lega e non solo della Lega, in primis l'amico Pillon, senatore amico, insomma, il senatore Pillon, dico amico tanto per dire, che vogliono bloccare il porno. E tu sei d'accordo? La cosa incredibile è che Parenzo è d'accordo. Vogliono distruggere l'industria del porno. Vogliono bloccare il porno. Praticamente, non solo vogliono il controllo dei genitori, che già c'è ovviamente. E non è che lo vogliono rafforzare, vorrebbero che quando tu fai un contratto con TIM, Vodafone, eccetera, sia escluso il porno. Sei tu a dover chiedere poi l'accesso ai siti porno. Sì, ma non è un'idea di per sé, tu sei a favore. Tu sei a favore di questa. Lo devi dire. Non devi avere paura di trovarti a fianco di gente come Pillon e altri leghisti. Sei a favore di questa follia. È disincentivante. Essere a fianco di questi è un po' però disincentivante. Però tu sei a favore. Qui partirà una battaglia a favore della libertà. Ma tu sei per la posizione con te, clinica un cazzo. Sono critica. Clinica. Io sono la famosa terza via bleriana. Ma vai a cagare, tu la terza via bleriana. Non si può neanche dire terza via bleriana. No, assolutamente no. Secondo te la gente cosa capisce quando dice la terza? Ma nemmeno i tuoi lo sentono, nemmeno i tuoi lo capiscono quando andrai da lunedì. Se lo dici lunedì, vai al 2. Sì, vai al 2. Vai subito al 2. Oggi tua moglie, tua futura moglie, a un certo punto ha detto: Parenzo, adesso rivela una cosa. Se potresti fare un collegamento con un teatro vuoto per parlare del problema degli artisti senza denaro, ma mi fai andare subito al 2. Subito al 2%. Mi suggerivi di l'autore occulto che suggerisce delle grandi De Luca, idee culturali. De Luca. Riascoltiamo un po' di cose su Salvini, eccetera, perché ne ha detto di tutti i colori. Soprattutto una, a differenza del Neanderthal, noi siamo civili. A differenza del Neanderthal. Sì, noi nel senso. Il Neanderthal, pure lui esagera, però ci sta. Quelli del centrodestra che dicono: è volgare. Ma ragazzi, Salvini che dà del volgare a De Luca. Salvini che dà del volgare al De Luca. Il bue che dà del cornuto all'asino. Va bene, un po' di volgarità ci vuole un politico, un po' di attacco, un po' di gente che c'ha le palle, un po' di gente che usa delle parole, no? Dai. Se fossimo stati sciacalli, sulla base di questi dati, avremmo scatenato una campagna di aggressione mediatica nei confronti di altre realtà del paese. Ma noi, diversamente dal Neanderthal, siamo persone civili. Poi oggi ha detto che i politici portano seccia. Ci sono alcuni politici che portano seccia, cioè che portano sfiga. Non so a chi si riferisce, immagino sempre a Salvini, naturalmente. Guardiamo con fiducia anche alla ripresa. Non è inevitabile che ci sia un ritorno di epidemia. Poi c'è qualcuno che lavora a portare seccia, tipo quell'esponente politico che voi conoscete, che lavora perché ci sia un'epidemia, ma noi contiamo di scansarla. Ma intanto prepariamoci con comportamenti responsabili. Allora, posso dirti una cosa, caro Davide? Io ormai non porto la mascherina da un po' di tempo, nel senso poi me la scordo. Beh, nei locali chiusi la porterai per forza. Qui tra l'altro è obbligatoria fino al 30 giugno. Ma ormai vedo che c'è un tutti liberi, c'è stato l'assalto alle spiagge nel fine settimana, c'è un tutti liberi ed è giusto così. Ma ti ho visto senza mascherina, non rompere i coglioni. C'è una foto tua al mare. Senza mascherina. E per forza no, al mare, tavolo, sotto senza il mio mascherina. Ombrello, anche al tu tavolo, non fare fuori all'aperto, dai, mangio all'aperto, che devo mettere la mascherina mangiando all'aperto in un ristorante, dai, che non dico quale, sulla riva di Ragazzi, la cosa più ridicola che è uscita fuori, la cosa più ridicola che è uscita fuori da questa cosa di Conte, da questa passerella assurda finita pure con la musica di Elisa, non so che cosa, è il voucher per le manager donne. Evidentemente continua. Sai, questo ma una roba ridica. Sai, è però il tuo non è leader idea. Questo qua, è il tuo leader. Ma io non ho nessun leader. Hai dato, hai leccato, hai sviolinato. La settimana scorsa ha detto è stata una persona, no? Ha fatto le cose a modo, eccetera, eccetera. Mi pare eccetera. Che insomma però nella il bufera. Tuo leader ha detto però... bisogna dare un voucher per le donne che vogliono fare i manager, ma vai a fare. Sì, per aiutarle, per la famiglia, ma questo è un grande è un tema che dovrebbe trovare una sensibilità anche a destra. Ma le donne sono incazzate per questa roba qua. Ma quali donne senti tu? Un voucher di 500 euro per 3 anni per le donne manager. Per le donne che aspirano a diventare manager. Delle prime 500 imprese in Italia, guardate, più o meno, non vorrei sbagliare la percentuale, solo il 6% è in mano a vertici manageriali donne. Quindi quando noi parliamo di empowerment femminile, sì, vogliamo dare una svolta anche in questa direzione. Sì, per core voucher per mai, ma ragazzi, ma che cosa ridicola è, dai. Ma è una cosa ridicola, patetica. E un'altra cosa ridicola, si sta arrivando veramente all'assurdo. A New York, sai che davanti al Museo di Storia Naturale, spero che tu ci sia andato almeno quello, al Museo come di Storia Naturale, a New York c'è una statua del signor Roosevelt, del signor stato a bronzo, del signor Todor Roosevelt, che ha ai suoi piedi, c'è lui a cavallo, e ai suoi piedi c'è un africano e un indiano d'America. Fra una statua che sta lì, diciamo, da non so da quanto tempo, da quanto è stato fatto il museo probabilmente, adesso non so esattamente. In questa ondata pazzesca di politicamente corretto, di assurdità, potremmo dire, sì, volendo, no? Voglio, ma sono tutti d'accordo. La cosa è che sono tutti d'accordo. Pure il sindaco, tranne Trump, per fortuna, una volta dice una cosa giusta. Dice per togliere questa statua perché è troppo razzista, semplicemente perché c'è il presidente e ai piedi un indiano d'America e un africano. Anzi, è la storia dell'America, ci deve ricordare che cosa è stata l'America purtroppo in passato. Ma certamente ci deve ricordare che lo sfruttamento dei neri c'è stato. La vogliono togliere Stati sul serio. Male, ma lo faranno col sindaco di New York in testa. È d'accordo, via libera per togliere la statua. Ma di cosa parliamo? Ma siamo arrivati al patetico, al ridicolo. Lo dico anche all'America, che è un paese che dovrebbe essere. Invece quando diventano intolleranti, sono intolleranti al 300%. Quella povera statua, che male vi ha fatto? È la storia dell'America, in cui c'è stato sicuramente, c'è ancora il razzismo, lo schiavismo, oh, quello che potete vuole ricordarlo, c'è ancora, meno male. Ma sì, c'è certo ancora, che c'è ancora. Male. Ma chi quindi è? Dov'è che non statua, c'è? Ma dov'è che non c'è il razzismo? Non c'è che c'è il Ku Klux Klan, cioè, esiste il Ku Klux Klan, che purtroppo ci sono, ecco, sacche mettete di razzismo fuori legge piuttosto che abbattere le statue. Ma quelli non lo mettono perché non mettete frega fuori niente legge quei criminali del Ku Klux Klan. Fate questo almeno. Per tornare a lavorare da professionisti dovremo abituarci a restare distanti, in cantiere, tra gli scaffali, tra colleghi e con i clienti. Ma con Fiat Professional anche il distanziamento peserà meno, perché essere distante sarà il pagamento del tuo nuovo veicolo. Riparti adesso e inizi a pagare a gennaio 2021. Gamma Fiat Professional con anticipo zero e primo canone nel 2021 da 144 euro al mese. TAN 1,99, tasso leasing 2,04. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 30 giugno. Info su fiatprofessional.it. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Vox Italiae si ispira alle pur modeste idee del sottoscritto Diego Fusaro. Io, Carmela, prostituta di Parioli, auguro a Parezzo ogni successo sul canale La 7. Ma cosa dice? La tua trasmissione in onda, ma e non in culo. Menagramo da menagrama d'una menagrama, ma non pronunciare neanche la parola. Menagramo. Ma certo, ma non deve neanche pronunciare la parola La 7, scusa, quella signora. Quella signora là, pronunci altre parole, si occupi di altre trasmissioni. Lei non deve guardare, guarda, non la deve guardare. Ma perché, non la deve guardare. Ma non me ne frega Carmela nulla dei di Parioli, questa qua, della la prostituta dei Parioli. Ma quella ma che fa quelle porche, per carità, che non lordi il nome della trasmissione della rete con mando, le sue parole. Guarda che te la mando là davanti, te la mando là davanti. Un caravanserraglio. Tu vuoi la mia morte? Ogni giorno. Tu vuoi la mia ogni distruzione? Io tra freak, poco se Dio ti mando un freak. Ma tu là vuoi davanti la mia distruzione? Sei una persona profondamente cattiva. Io avrò 4 figli e tu vuoi la mia distruzione, portandomi avrai, questo caravanserraglio di mostri. Avrai 4 figli. Avrò, se Dio vuole, adesso arriva la quarta. Adesso arriva la quarta. Capito? avrai un quarto figlio. Ne hai già tre. Non è che avrai quattro figli. Arriva la quarta, ragazzi. Tu vuoi la mia morte? La mia dillo subito, dillo chiaramente. Mandandomi questa gentaglia qui, coinvolgo quella gentaglia lì, lasciala per questo circo. Quello lì è puro, è un luogo puro. È un luogo puro. Allora, assettico. Ragazzi, io voglio capire da che parte vi schierate. Sì. Qui c'è un poliziotto che all'interno di un centro per immigrati, non mi ricordo dove. Non c'è. Sì, no, non c'è dubbio su questo. Sì, è noi stato vorremmo anche avere sospeso. La tua di opinione. No, avere. Ma la mia la di opinione. Che vorremmo dire, che ragazzi. Tu prendessi posizione. Ma è chiaro, prima o poi. Un poliziotto. Vorremmo che tu dicessi e parlassi di questa questione anziché nasconderla. Perché io ero al telefono con gli avvocati di Manconi di A Buon Diritto e siamo pronti a difenderti. Ma su che cosa? Tira fuori con orgoglio, prendi una posizione netta nelle cose. Non lisciare il pelo a questi personaggi qua. Ma io non sto lisciando il pelo a nessuno. Dico con la voce Ale. Non ti tolgono il programma. Ma non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Allora, qui c'è un poliziotto che lavora in un centro di accoglienza ad Agrigento per immigrati. Ecco. Che dice: sei ospite a un immigrato. Credo che uno che abbia tentato la fuga. Non mi ricordo. Sei ospite, devi rispettare la legge. Poi, però, e fino a qua, diciamo, ci possiamo anche stare, no? Non è che un poliziotto non può dire a uno: sei ospite, devi rispettare la legge. Ma ci mancherebbe. Diciamo, altro. Sei ospite ha un peso in più. Ha una forse male, una posizione. Coraggio, forza. Ma ho capito, ma che cosa vuol dire? Forza, ma, ti aiuto. Ma che siamo pensi, con che dentro te. I centri degli immigrati siano tutte rose e fiori? I poliziotti usano ogni tanto, no, delle parole forti. In questo caso anche, anche la mano forte, perché a un certo punto dice a un altro immigrato: dai uno schiaffo a lui. E tutti si mettono a ridere. Senti. Ospite, e devi rispettare la legge. Ok? Tu dai uno schiaffo a lui. Uno. Dai lo schiaffo a lui! Dico schiaffo a lui! No, no, così è schiaffo! Ok, solo a lui! No. Schiaffo! No! Così è schiaffo! Schiaffo! Fai l'uomo! Uomo! Allora non uscire di qua! Diciamo metro bombe! Ok! Allora, posso dire una cosa? Se tu guardi il video, in realtà tutti si mettono a ridere, non solo i poliziotti, ma anche gli immigrati che stanno lì. Dunque, non è Guantanamo, cioè non è che è successa una cosa da Guantanamo. Dice: dai uno schiaffo, così fai l'uomo, non devi scappare, eccetera, eccetera. Questo è stato sospeso e va benissimo. Certamente non è una pratica ortodossa, però non è che siamo a Guantanamo. Cioè, non è la polizia politica del regime cileno, che sta lì, eccetera. Ma che vuol dire? Non si mettono le mani addosso a nessuno. È un paragone che non puoi fare. Non si mettono le mani. No, ma voglio dire. Non è che c'è la questo qua è stato torturato. È una cosa che probabilmente ma si fa. Ma ci mancherebbe altro. No, dico una cosa che probabilmente si ma fa. Ma perché non prendi una posizione? No, netta, ho detto che ha sbagliato. Semplice. Ho detto che ha sbagliato il e poliziotto. Non ti devi preoccupare delle conseguenze. Ma che cazzo glielo diciamo frega, noi a Salvini. Manconi lo chiamerà, gli dirà: guarda che Cruciani è una. Non ti preoccupare, ti proteggiamo noi. Allora, il poliziotto ha sbagliato, ma non è la tortura di Guantanamo, c'è una risata collettiva. C'è un modo per appunto, dire a quello non per scappare. Per mettere in scherno no, e sì. Metterlo. Ho capito. Scherno è perché c'è il telefonino. Perché quello è un coglione che si è fatto riprendere. Non si fosse fatto riprendere, o comunque non fosse girato il video, non sarebbe successo nulla. E quello, certo, non è che sarebbe andato a denunziare il poliziotto per uno scappellotto dato che ne in un gioco che con sarebbe l'amico. Stato diffuso no, ma quel video, dire, magari. Ma certo, ma poi è un errore perché un poliziotto deve fare il poliziotto. Non appunto, è che dice a uno: dagli uno schiaffo. Molto semplice. Su questo non c'è dubbio. Senza attenuanti, senza se e senza ma. Infatti, meno male. Ma infatti è stato sospeso. Coraggio. Tira fuori il coraggio. Tira fuori il coraggio. Attenzione, proposta delle sardine però. In questa grande bordello post-Covid, ma piantare un albero è sempre una buona pratica, no Salvini? Jasmine Cristallo delle sardine. Impiantare un albero è sempre una buona pratica se la si inserisce in un contesto in cui purtroppo ci hanno testimoniato anche attraverso questo Covid quanto sia importante avere rispetto per l'ambiente, perché quello a cui stiamo assistendo, quello a cui abbiamo assistito è anche frutto di come abbiamo gestito il nostro ambiente. E poi grande battaglia con Corinaldi, no. Senti, sì, abbiamo fatto per carità, siamo tutti, per carità, cioè, ma magari pensassero prima a destinare risorse per le persone, padri e madri di famiglia che non riescono, come ha detto giustamente lei, a mettere insieme il pranzo con la cena. Poi piantiamo tutti gli alberi che vuole. Le due cose non devono necessariamente essere messe, perché sono il populismo. No, cioè questo tipo di sintesi è una sintesi assolutamente populista. In realtà adesso siamo in emergenza, poi gli alberi li piantiamo dopo. Ma lei sa in che contesto? Le sto dicendo, siamo tutti d'accordo nel piantare tutti gli alberi che vuole, magari pagandoli meno di 1.000 euro l'uno, perché non so le sequoie, quelle secolari. Guardi, io non sto discutendo l'albero, mi dispiace che lei voglia No, non ha capito quello che le sto dicendo io. No, forse lei non si è spiegato però. Lo so, però guardi, gli altri hanno capito, non si preoccupi. Prima ci sono altre priorità e poi piantiamo gli alberi. Credo che abbiano capito tutti, ha capito? Perché si sta rivolgendo ad una signora. Poi faremo un approfondimento sugli alberi. Che palle pure sto, si sta rivolgendo una signora, stai là e combatti a Cristallo, stai lì con con Rinaldi. Beh, non è che stai alla ma cosa ha mostrato le lire o no? Ha mostrato le lire e lirette, Daniele dalla provincia di Fermo, dai, non l'ha mostrato. Oh mamma mia, inizio gli ascoltatori. Ci siamo? Dimmi. Mamma mia, allora, io prima che la zanzara entra in lockdown voglio entrare nella storia e intervenire in merito e tu voglio sapere come la pensi in merito alla fantastica esperienza del sesso con donne in gravidanza. Questo lo devi chiedere al signor Parenzo, però, perché io non c'entro niente. Il mio ricordo risale a una quindicina di anni fa. Ma dopo, però voi come sapete, io di questi argomenti sesso ascellare, vuoi parlare di donne, sesso con donne incinte. Ho capito, come sapete. Fermi tutti. E quindi. Il segnale orario vi è offerto da Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it. Vuoi rendere agile la tua azienda per essere veramente smart? Passa a Pantera, l'ERP italiano che copre tutti i processi gestionali, facilitando la collaborazione in mobilità di tutti i soggetti dell'ecosistema aziendale. Se il tuo gestionale è un assistente affaticato e passivo, è il momento di passare a Pantera. Finalmente i tuoi processi diventeranno proattivi e l'informazione ti inseguirà ovunque. Anticipa il cambiamento. Passa a Pantera. Pantera è una soluzione di Var Group. E ricorda, Pantera si scrive con il TH. La zanzara. Sì, io vedo molto negativo. Ciao, sono Corrado da Bari e cago nei parchi. I love my radio. Ciao, sono Pino da Pistoia ed anch'io mi sfascio di canne e seghe. I love my radio. Sono Federico da Padova e anch'io con la mia ragazza pratichiamo scambio di coppia. I love my radio. Ciao, sono Andrea da Milano e mi infilo la dita sotto la pelle del prepuzio. I love my radio. Ciao, siamo Lorenzo e Luca da Brescia. E anche noi caghiamo nel mare, così non dobbiamo pulirci il culo. We love our radio. Io non so un cazzo. Legate gli mani a questo. Di parolacce il bombolo che ho fatto il voto. Ma il voto l'avete fatto voi, mica ho fatto io. È come se uno smette la fumare e tu gli fumi in faccia, bombolino, lo devi fare, eh? E che cazzo mi faccia Non vedo la lucetta rossa. Come mai? Dico falsa pandemia perché quando conteremo i numeri alla fine dell'anno, i numeri dei morti generali, non dei morti soltanto da causa di coronavirus, capiremo che questa narrazione è stata distorta, non soltanto in Italia, è stata distorta a livello planetario e credo che se qualcuno non riesce a portare una parola di verità, e io considero l'onorevole Meloni un leader assoluto della destra planetaria, non soltanto italiana. Meluzzi, chiudi anche perché io non sono d'accordo con quello che stai dicendo, anche perché no. Falsa pandemia, assolutamente. Ma io mi rifiuto di ascoltarla. La parola pandemia è la parola pandemia che è gravemente perché sbagliata. Perché tu non ci sei stata nei reparti di terapia intensiva dove morivano dove anche ragazzi di 18 dove anni. Dove la gente veniva pompata con terapie sbagliate con l'ossigeno. Ma che cosa che dici? Che morta di Covid e morti. Quando fai i conti alla fine... Non sono d'accordo su quello che stai dicendo. Scusa un attimo, Meloni. Ma io mi assumo la responsabilità di ciò che dico. Scusami, Meloni. grande confronto D'Urso Meluzzi sul coronavirus. Magnifico, sfanculato pure dalla D'Urso, meraviglioso, meraviglioso. C'è un altro da mandare, preso a calci nel sedere, preso a calci. Attento che poi la verità viene a galla. Attento che la verità viene a galla. Fermi tutti, cioè tu credi a quello che ha detto Meluzzi? Sui morti c'è da discutere. L'altro giorno l'ha detto anche Zangrillo. Bisognerà vedere alla fine. Cioè tu stai paragonando Meluzzi con Zangrillo. Io mi auguro, siccome Zangrillo ascolta questa trasmissione, io mi auguro che ti quereli e ti porti via davvero tutto. Perché come fai a paragonare il professor primario Zangrillo con noi? Zangrillo primo, primate della chiesa autocefala del San Raffaele. Ma dai, ma sei pazzo sei? Ma perché devi screditare un professore come Zangrillo? Sto perché? Dicendo che la questione di come quando sono morte lo chiamerai le persone, per le tue verruche, perché tu questo facevi. Io ora voglio dire, ogni volta che hai, scusami Zangrillo, io chiama il primario, ho 37 e mezzo di febbre, cosa devo fare? Scusami Zangrillo, tu usi i primari privatamente per le tue povere marchette, per quelle due malattie che hai. Scusami Zangrillo, ho 37,2, come posso fare? E la gente poi muore di fame. Non è che chi ti ascolta la radio può chiamare coglione il grande primario del San Raffaele come fai tu. Chiama Meluzzi d'ora in poi quando stai male. Quando stai male, chiama Meluzzi e vediamo come finisce anche un banale raffreddore. Vediamo in che cosa si trasforma. Fatti curare da Meluzzi se hai coraggio. Il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirigna. C'è anche Briatore che chiama Zangrillo. Povero Zangrillo, tempestato di telefonate. Abbiamo chiuso con Meluzzi D'Urso. Scusa, abbiamo finito, vabbè. Comunque Meluzzi sostiene una cosa molto semplice: che alla fine dei conti si farà si capirà quanti sono morti veramente del coronavirus o quanti sono morti per altre cose. Lui è convinto che questa pandemia sia stata finta. Ma che cazzo vuoi? No? Non è una tesi, cioè una tesi su cui ti può discutere, no? Non è che si puoi avere ragione solo di te. Cosa vuoi discutere? Perché si può discutere di tutto? Ma tu cosa dici? Si può discutere di tutto. Intanto, ragazzi, è tornato a parlare Pappalardo. Pappalardo. Senti. Siamo stati quotati da Mentana intorno al 13%. Ma chi? Ma non lo mai. E già il Movimento Giulia Arancione è visto al 13%. Mentana. Bene, dopo nemmeno un mese facciamo anche il congresso nazionale. A Rimini, sabato a Rimini, pure Vasco Rossi contro di noi. Ma non è che contro di noi. Ti ha preso per il culo, forse. Ti reputa un pagliaccio, dai. Hanno cominciato a dire che eravamo bombaroli, fascisti, terroristi. Questo regime che non vale assolutamente niente ha istato pure contro di noi pure alcuni artisti, pure Vasco Rossi, che si permette invece di fare musica di attaccare noi. Sono abusivi, solita roba. Qualche radio mi dice che lei può parlare di tutto, però non mi raccomando, non parli degli abusivi, come sarebbe a dire la cosa principale. Ma più importante dice? Ma se loro sono abusivi, come possono gestire lo Stato? Sono tornato in automobile da Bruxelles, sono in Francia, ho messo il mio bancomat dentro e guarda caso poi sull'estratto conto dai telefonini, uno lo vede, c'è, ma l'hanno prelevato due volte. Chiaramente domani mattina ad apertura chiamo, dico, ma già costa tanto la benzina, ma torniamo subito questa cosa. Perfetto. Ma avrei fatto una cazzata tu lì. Ma hanno fregato. Questo mortacci, è per dire loro. che il contante è un simbolo di libertà e che non si vuole e che non vorrebbe, diciamo, usare solamente il banco. Ma ho capito, ma quella sarà stato un errore. Hai fatto tu al coso. È molto in tutto il mondo. Si che ha fatto se lui. Tu vai in America, paghi anche il caffè con la carta, col banco, ma te è comodissimo. Se permettete, il contante rappresenta anche una forma di libertà personale, perché se io ogni volta, anche per comprare un caffè o un giornale, devo mettere il mio bancomat, la mia carta di credito, e questi dati vengono gestiti chissà dove e per quali finalità, e sanno tutto di me. Ma vendono questi dati, c'è banco, la proliferazione. E se permettete, io la mia libertà la voglio. Ma quale libertà? A questo punto tieniti. A bomboli, ma quale soldi, libertà? Tieniti i soldi con lo spago. Ma non glielo dici quando ce l'hai davanti? Sì, gli lisci il pelo, lo accarezzi, lo accarezzi. Incredibile. Allora vai, dove ma che cosa ti hanno promesso? Daniele, ce lo vuoi dire? Sì. Cosa ti hanno promesso? La presidenza della Camera che delle ti vogliono la presidenza della Camera. Ti hanno promesso. Così almeno sei contento. Che cosa ti hanno promesso? La presidenza della Camera, promesso, se vincono. Cosa t'hanno la presidenza promesso della Camera, che porta la sfiga. La cosa t'hanno porta sì una sfiga. Tutti quelli che fanno la presidenza della Camera sono caduti in disgrazia assoluta, è vero? Sì, sempre in piedi, però diciamo Daniele, sì, provincia, vabbè, di Fermo. Ah, che genere. Allora, che volevi? Tu volevi sapere che cosa, voglio dire, alcune notizie sul sesso con la donna gravida, diciamo, con la donna in gravidanza. Esatto. Amico mio, non so, apriamo un grande dibattito. Parenzo non ne parla perché, nonostante abbia 8 mesi, 7 mesi, non vuole parlare del fatto. No, ma nonostante abbia un'esperienza molto, molto lunga nel merito, allora, sì, esatto, ci tengo a precisare che non voglio assolutamente fare, diciamo, ironia su. Vedi, no, ma è un educata tema molto serio questo. È una persona molto educata, molto cioè, come ci si comporta durante il periodo della gravidanza? Ci sono molte persone che mi raccontano che continuano a scopare tranquillamente, con grande attenzione, naturalmente, ma a scopare. Altri che si arrapano tantissimo. Io, per esempio, a me non è capitato, amico mio, non è capitato, cioè mi ricordo, ricordi lontano. No, non mi non ho fatto granché, non mi ricordo, non voglio adesso scatenare allora altre cose perché sai come dire. Ho diversi un attimo la mia esperienza. Allora, praticamente io nel sesso in gravidanza ho scoperto anche lo squirting. No, beh, adesso qui capito si va verso arriva caro Giuseppe. Beh, non lo so, Daniele, che ti devo dire? Mentre io mi sono va bene, impaurito. Complimenti, beato te, che ti devo dire? Cioè, non so che dire. Nel mentre io mi sono impaurito perché era il sesto, non è che se erano rotte le acque, no? Appunto, dico, cioè, appunto. Non è che bravo idiota. Sono impaurito, però da lì è partito l'embolo, In che senso hai portato? Hai scopato di più in gravidanza che nei tempi normali? Che nei tempi normali? Beh, io ho dato. Poi dice che fa tanto bene. L'ostetrica mi diceva, dai, che favorisce il passo. L'ostetrica pure. L'ostetrica che faceva il tifo. Ma in quale ambiente vive lei? Vivete voi? Ma in provincia di Fermo. Ma che contesto sociale è quello lì dove c'è anche la moglie che ascolta l'ostetrica? Dai, che contesto è? Che contesto? Alberto da Varese, Alberto che da Varese. Gente, Alberto, dimmi Alberto. Sì, pronto? Dimmi Alberto, dimmi. Sì, Alberto. E ciao, salti convenevoli perché so che tu cruci mi manderesti a fare il su Alberto, vai veloce, dai. Allora, niente, non fa ascolto. Buongiorno, ragione, buonasera, non fanno ascolto. Che cos'è uno mattina, dai. Uno mattina può dire buongiorno. Il più grande desiderio, mi ascolti, il più grande desiderio non è vivere 100 anni. Io sai, aspetta, il tuo desiderio adesso ce lo dici, però io potrei godere fortissimamente se dalla settimana prossima tu ogni tanto a qualche tuo ospite in onda dicessi ma dai, non fai ascolto, posso prometterti che da qui alla fine della stagione può essere che a uno qualcuno questo non fai ascolto così ci porti all'1% ancora costo 2 mani mortacci tu. Alberto, allora il desiderio qual è? Desiderio. Vabbè, stavo dicendo che è di salire nell'attico di Parenzo, che è un grande. Ma non c'è attico, però questo è il non tema. C'è attico, prendere l'ascensore, andare nel suo lavandino, sbottonarmi, dopo aver bevuto magari un litro di birra, così ne ho tanta, ed urinare nel suo lavandino d'oro. Buonasera, grazie per aver chiamato la trasmissione. Sembra di capire che è un'ipotesi abbastanza difficile, perché non essendo tu invitato. Sei innanzitutto a Varese. Primo, Milano, primo elemento ostativo. Però uno dice, secondo, a lavoro, casa dei miei, non che è la casa a cui lei fa riferimento, non penso che se lei suona e dice salve, sono Alberto da Varese, voglio pisciare nel lavandino, non penso che le aprano con una certa facilità. Io non te lo dico, cioè io mi devo fare tuo amico, no? Qualcuno dovrebbe far finta di diventare amico di Parenzo, farci invitare a casa, e poi dice l'ho fatto solamente per pisciarti nel lavandino. Va bene, sarebbe straordinario. Fermi tutti. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Via da questo canale. Cruciani del cazzo, se chiudi la Zanzara a settembre io mi do fuoco in viale Monterosa 91. Mortacci tua. Sono Francesca da Monza e anch'io, senza alcuna vergogna, piscio nel bidet. I love my radio. Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid. Non abbiamo bisogno di nuovi disinfettanti, non abbiamo bisogno di nuovi sistemi, luci, lampade, ozoni, madonne. Che l'uso di tutte queste sostanze chimiche per decontaminare ci farà venire delle allergie alle quali non abbiamo pensato, oddio, delle belle reazioni, perché no, a furia di strusciare tutto, no, con la Madonna, pulire, pulire, pulire. Allora, abbiamo due o tre notizie veloci, caro David, giusto per riscaldare ancora no, l'ambiente. L'OMS, che dall'inizio non ci ha capito un cazzo di questa cosa, adesso dice, e poi c'è uno italiano che dice invece non sono d'accordo, tu ti rendi conto, l'OMS che si divide al suo interno. Vabbè, e si divide al suo interno, che per uscire dall'isolamento non serve il doppio tampone negativo. Non ci capiscono più un cazzo. Bastano tre giorni, dicevano, hanno detto che bastano. Adesso stileranno. Dai, perché il virus è nuovo. Cioè, se la cosa non fosse nuova, sempre a giustificare. Tu i protocolli li puoi fare. Ma no, sembra giustificare. Tu ti fidi della scienza, sì o no? Ti fidi della scienza, sì o no? Non ti fidi della scienza. Dipende da che scienza. Allora mi piacerebbe che tu facessi una cosa. Non dall'OMS, non mi piacerebbe che tu facessi una. Mi piacerebbe che da oggi, da oggi tu ti devi affidare soltanto, sai a chi? Sai a chi? Sentiamo, no, no, ma a chi? Sentiamo un attimo, noi a questo Alessandro I, perfetto, al secolo Alessandro Meluzzi, al secolo, primate della Chiesa ortodossa italiana autocefala, autocefala però antico orientale, antico orientale. Affidati a lui. Ma io ho detto, ma non ci si può affidare alla scienza. Affidati, non ci si può affidare oggi dopo le cazzate che hanno detto. Oppure a Vanna Marchi. No. Puoi scegliere. Allora, puoi scegliere. Poi puoi scegliere. È ricominciata la festa di Yulin, quella dove mangiano i cani, dove mangiano i cani in Cina. Affidati a lui. OMS, d'accordo. Ha ripreso alla grande il festival della carne di Yulin, dove cani e gatti vengono fatti praticamente a pezzi. Mamma mia. Usanze cinesi, ragazzi, cazzi loro. E Rita dalla Chiesa dice che il popolo cinese merita l'estinzione. Beh, questo l'estinzione. Mi sembra un'opinione. E un po'... coglione che si chiama DJ Aniceto, qualche volta pure ospite di questa disgraziata trasmissione in tempi passati, ha detto che Zanardi se l'è cercata perché non era una gara sportiva. Poi naturalmente si è pentito, perché c'è anche l'usanza di pentirsi subito dopo, come quel consigliere della Lega, consigliere comunale, che ha messo un like ad una frase del signor Hitler, anzi no, ad una frase di uno che ha detto, ma quel signore coi baffi che adoperava i forni, non c'è più? È un consigliere della Lega, poliziotto, sindacalista della polizia, ha messo like. Poi non, dice, ho capito di un non ho capito di quale della partito. Della Lega di Ferrara, ha detto... non ho capito quale senso, puoi ripetere un attimo allora, l'episodio? Un consigliere comunale della Lega di Ferrara. Della Lega di Ferrara, Tale Caprini, della Lega Nord, ex Lega Nord, della Lega nazionale. Della Lega, di Salvini. Di Salvini, eccetera. Ha messo un like ad un post in cui si... Uno ha scritto queste parole: ma quel signore coi baffi che adoperava i forni non c'è più? Punto interrogativo. Di che partito? Non ho capito, che va via la Lega. Roma. Lui ha detto però. C'è uno della Lega, ripetilo tu perché non ho capito. Ma l'ho detto, uno della Lega di Ferrara. Non ho capito, uno non della si Lega sente, di Ferrara. Via la linea. Allora, questo signore qui ha detto: poi no, mi è capitata la mano lì, non l'ho fatto apposta. Ho messo un like, non me ne sono reso conto, poi l'ho tolto. Questa è la situazione. In tutto questo c'è Spatalino. In tutto questo c'è Spatalino, che risentiamo volentieri. Il grande Spatalone. Vediamo su che spara oggi. I delinquenti, i falsi profughi. C'era qualcuno con lo smartphone. Guai a non dare lo smartphone a sta gentaglia. Sono tutti organizzati, forti, pasciuti. Ma loro vengono dalle guerre stellari. Se dipendesse da me, non li farei entrare ricorrendo a mezzi anche forti, che tu non hai alcun diritto di venire in Italia a inquinare la mia nazione, il mio territorio. Nel video la gente è con due tunisini che avevano tentato la fuga. Sì. Il questore, sue parole, ha detto: una persona che non ci rende onore. Solo per la cronaca, quello il questore schiaffo è una dottoressa, è una donna. Non vi rende onore solo perché ha preso a sberle due sacchetti a perdere. Ma io gli do la solidarietà. Ma sti cazzi. Senti. Solidarietà massima. Ogni tanto qualche sberla fa bene, fa rinsavire. Cosa fa? Allora, Spadalino è d'accordo con quel dà la solidarietà al poliziotto che ha preso a sberle. Per forza. Ha preso a sberle, ha fatto prendere a sberle, proprio lui ha dato uno schiaffo, credo, all'immigrato che voleva scappare in quel centro d'Agrigento. Allora, ci ha chiamato intanto Roby Bianchi, che è un mio amico, è il gestore di un sexy shop, che vuole denunziare una cosa. Anche tu saresti d'accordo su questa cosa, Parenzo? Potresti essere d'accordo su questa cosa qua? Non lo so. Perché la cosa incredibile, oltre che in alcune regioni non un'altra danno i soldi, escludono un'altra marchetta, escludono. Mai che chiami un libraio, uno io che chiamo si le persone della vita libri, reale, dei libri ma io non antichi, ho chiamato Roby, gli vuoi spiegare qual è il problema? Perché no, oltre a non dare soldi ai sexy, ma perché bistratti le attività economiche? Una attività economica vale l'altra, un sexy shop vale una libreria. Un sexy shop vale come, che ne so, come la tua In Onda, cioè la no, stessa cosa. Però, scusami, una... però. No, ma è adesso la stessa cosa. Però, ogni scusami, attività economica è un'attività economica. Cioè, un pizzicagnolo, che cazzo ne so come si diceva un tempo, una alimentari, è uguale a un sexy shop. Perché non devono avere i soldi degli incentivi? Però c'è un'altra cosa. Beh, non ti fanno un aprire bene di prima necessità, non ti fanno... forse un po' meno, però ma è viva. Cioè, voglio dire. Roby, qual è il punto? Non ti fanno aprire i conti in banca? Qual è? Allora, ciao Cruciani. Ciao. Il problema è questo, vorrei che me lo spiegasse Parenzo, visto che prima si parlava molto di trasparenza e di altre cose. Di POS, dici, di POS. Sì, di POS e di banche, no? Sì, praticamente. Sì. Allora, cosa succede? Che praticamente la mia banca con cui lavoravo dal 2007, per cui oltre 13 anni, ma chiuso il conto perché abbiamo litigato, ho litigato con il direttore, per cui conto chiuso, premetto che non ho mai avuto proteste, mai avuto nessun problema, non era un conto affidato, era un conto tranquillissimo senza nessun problema. A questo punto vado ad aprire il conto ad altre banche, le banche non aprono il conto a un sexy shop per l'etica bancaria. Ma non è possibile, come spieghi, Parenzo? Ma no, mi sembra una follia, cioè questo qua va controllato, cioè dire per l'etica, mi sembra una follia, se tu dici che vuoi aprire il conto, ha ragione lei in questo non caso. Personalmente ma come diciamo attività? Come attività, ma come? Sexy shop, ma non è possibile, non aprono il conto, Parenzo. E ti dico, ma cosa di vuoi più da me? Io ti dico che è una follia, ma ti pare che è un'attività economica riconosciuta? Ti pare che infatti, non gli apri il conto? Infatti, hai ragione, è una follia. Partita IVA, pago regolarmente tutto quanto. Cioè, tu stai dicendo che alcune banche, per motivi etici, non aprono il conto se tu quel conto lo vuoi intestare a un'attività. Esatto. Perché se lo apri come Roby Bianchi, immagino che tra l'altro non è manco il tuo nome, ma comunque insomma, se lo apri con il tuo nome, immagino che non ci siano problemi. Però è se chiaro. Tu vuoi aprire un conto intestato al sexy shop, non te lo fanno aprire. Lo fanno aprire perché dal momento in cui tu gli dai io gli do la partita IVA e la visura camerale, risulta un negozio per adulti. E dunque loro per motivi e che ti dicono loro? E che ti dicono loro? Mi dicono subito che non lo aprono. Cioè, figurati che sono entrato in una banca, questo qui quando gli ho detto che era un sexy shop, ha detto che non lo aprivano assolutamente, ma non una, ti parlo di 5 banche. Finalmente sono riuscito ad aprire il conto corrente su un'altra banca, adesso non sto a far nomi. Vabbè, sì, certo. Un direttore simpaticissimo. Sì, e alla fine però, quando siamo arrivati al punto, perché mi ha detto ti faccio avere il POS, facciamo l'assicurazione, mi sono ritrovato che mi ha detto guarda, scusa, non so come fare, ma non ti posso neanche fare l'assicurazione che sarebbe obbligatoria per qualsiasi negozio dove tu fai l'assicurazione per parare incredibile. I clienti praticamente. Comunque è pazzesco il bigottismo che c'ha ancora in giro. Veramente. Senti Roby, una sola cosa ti voglio dire. Qual è il, tanto dato che sei qua, qual è il prodotto più venduto come oggetto così, ancora? Le palline, per esempio. Palline. Cioè, qual è l'oggetto in questo momento più venduto dal punto di vista sessuale? I soliti vibratori, le palline, che cazzo ne so? Tantissimo sempre Ho comprato da lui, un fallo di quelli che si attaccano al coso, caro Parenzo, un fallo di quelli che si attaccano adesso guarda la faccia, guarda, un fallo di quelli che si attaccano tipo ventose, di quelli ventose. Qual è il prodotto più venduto? Dispiaciuto proprio. Il prodotto più venduto resta sempre l'ovetto col telecomando. Quando vanno al supermercato gli fanno impennare il carrello. L'ovetto col telecomando, cioè tu puoi praticamente telecomandare la vibrazione della figa di una persona, così. Esatto, quando glielo fai partire al supermercato. Cioè la donna va al supermercato con l'ovetto dentro, tu fai partire, tac. E tu stai dietro tranquillo e lo fai partire. Bah, amico mio, il top assoluto. Ciao Roby, ciao, abbracci, ciao. Ciao, grazie, ciao. La Zanzara. mi bloccano di qua, mi bloccano di là, ma io me ne frego, vergognatevi a Roma, avete il culetto tranquillo sulle vostre poltrone dorate. Ester dalla provincia di Milano, avanti tutta Ester. Ester Benson. Dimmi. Buonasera, senta, io volevo fare... Ho capito. Brava, chi è, bravissima, ho capito. Questa, bravissima. Volevo fare una critica a tutti quei cervelloni lì che criticano il virus, no? Tutti quei cervelloni lì. Sì. Peccato che tanta gente, tante gioventù ha dato il sangue per la democrazia. E perché c'è un po' di democrazia, adesso sparano tutto, è meglio che certi personaggi. Qualcuno prende le retini, come quel prete l'Almelussi e Sgarbi e lei che mi fate schifo perché non ma mi tu mi fai schifo la... ma tu mi fai schifo, ecco, non fa niente, io tu mi fai schifo, ecco, perché guardi, perché ma perché non ho capito, guardi, cosa lei... ti fa schifo, la libertà di parola, non che non cosa è che ti fa schifo, la libertà di parola, quella lì non è quella lì, scusi, è signora, male di lei ha mai usato l'ovetto? No, ha mai usato l'ovetto? Ma che porca, usi un po' di ovetto di quelli che hanno perso la vita per curare la gente, andate a bravissima. Nascondervi, ma si vada a nascondere lei, ma si vada a nascondere la chiudono, lei meglio, ma che si... la chiudono, ma cosa chiudono, rincoglionita, ma richiamo imposta rincoglionita, che stavolta me la voglio cucinare bene sta Ester, maledetta, sta vecchia maledetta. Ma come vecchia, ma una persona, ma per così carità, per bene, ma che persona per bene, è una disgraziata questa qua, meglio che la chiudano, questa qua la voglio massacrare questa qua, massacrare. Non si può parlare di pandemia se non come dice lei, la signora Ester da Milano, ma vaffanculo, va. Richiamano un attimo sta vecchia. Ecco, arriva, aspettate, l'attesa, l'attesa, dai che fa ascolto l'attesa. C'è un rispetto, però, ma più di rispetto, ma quale rispetto? Rispetto non fa ascolto. Montalbano, rispetto, no. Ah, si caga sotto. Pronto? Ah, ecco. Se la fa sotto la signora. Ma se la tratti così? Se la fa sotto la signora. Se la fa sotto lei. Se la fa sotto la signora. Se la fa sotto la signora. Che i giovani abbiano un po' di educazione. Bravissima, esatto. Ma rovinate che? In quella maniera lì. Ma parlate che? Ma tu lo vuoi, puoi tarpare la libertà di parola alle persone? Lo scriva all'azienda, brava. Di criticare chi? Questa gente che si sta... Chi critica? Ma non sai, ma... Tutte queste, ma chi sta criticando? Ma è essere incoglionita, che sei? Che ha scoperto una penicillina. Ma questo sarà incoglionita completamente. Tutti i sanatori li hanno chiusi, ci hanno messo degli anni. Ma questa è incoglionita totale. Nessuno che voleva saperla lunga e sputanare di qua e sputanare di là. Ma sputanare che... Voi dovete imparare una cosa. Cosa? Andare dagli analfabeti a imparare l'educazione, sì, e un po' di creanza. Dagli, signora, lei è la prima cafona. Lei è la prima cafona. Lei è la prima cafona e ha veramente rotto i coglioni. E ha veramente rotto i coglioni. È la prima cafona e ha veramente rotto i coglioni. Signora, ha capito, vecchia rincoglionita, ha rotto i coglioni. Sono con lei all'attacco. Prenda carta e penna e scriva all'azienda. Scriva all'azienda. Ma vai a fare in culo. Ha buttato giù sta rincoglionita. Poveretta. Sta vecchia rincoglionita. Daniela Martani con noi. Buonasera. Ecco, un'altra matta. Buonasera. Un'altra poveretta scriteriata. Un'altra matta sotto a chi tocca, via, altra scriteriata, ma non è questione di donna, ho detto ecco un'altra scriteriata, se ne allunga, ogni giorno ce n'è una, questo farebbe subito il vaccino, Daniela, farebbe subito il vaccino sul Covid, io no. Posso dirti, io non lo farei il vaccino per il Covid, che cazzo lo faccio a fare subito, ma perché lo dovrei fare vaccino anti-influenzale per il Covid obbligatorio, ma perché dovrei fare, allora non puoi obbligatorio, altrimenti non vai a lavorare, obbligatorio, ma se non lo fai non sei in regola, non lavori, devi sparire dalla faccia della terra, una pora scriteriata, porella, che bacio in bocca al cane, dimmi te con chi devo parlare, mi hanno fatto studiare per parlare con una che si bacia in bocca con i cani e non per i coglioni, ma pensa te, la Martani, scritteriata, ma non ho capito perché uno deve fare per forza il vaccino per il Covid. Una mezza quando matta. Ancora non si sa niente del una vaccino, se serve, mezza non serve. Matta. Una quello simpatica vuole, mezza lo vuole matta. Rendere obbligatorio quell'altro. Parenzo certo. Lo vuole rendere obbligatorio. Se no non vai a lavorare. Devi avere. Magari gli danno pure qualche soldo per le persone a prendere a farsi vaccinare. Cosa hai detto? Questo è grave. Cosa hai detto? Pure qualche soldo per indurre le persone a vaccinarsi. Ma io ti denuncio e ti porto via il cane. Scusa, non hai un cazzo. Ti porto via il cane. Un piccolo conflitto di interessi. Ma io ti denuncio e porto via il cane. Io ho sempre sostenuto. Ma vaffanculo. Ho sempre sostenuto. Ho sempre sostenuto che i vaccini sono fondamentali. E li facevo anche prima che scoppiasse sto casino. Dopodiché, con questo casino, ti dico: vuoi andare a lavorare? Bene. Allora devi avere un certificato. Devi avere un certificato. Vita, che non sei che sei vaccinato come quando si va a scuola come quando si va a scuola lo fai devi il vaccino al cane kosher devi abolire la carne kosher ma il cane lo fai vaccinare o no quel cane che hai lo fai che è più pulito di te lo fai vaccinare o no il cane manco il cane manco il cane lo fai vaccinare adesso quello per forza lo devi far vaccinare neanche il cane è un obbligo di legge neanche il cane ormai da non fai vaccinare non neanche il cane ci sono alcune cose che sono per legge sono così. Obbligatorie le vaccinazioni per il cane ti denunciano ma cosa non è obbligatorio quel tuo cervello matto della svalvolata sei una porella svalvolata sei una porella svalvolata oggi Sistema, ma svalvolata. Questo è interessante. Ma sempre dalla parte del sistema. Sempre dalla parte del sistema. Stai zitto. Ma perché sta svalvolata? Oh, io non lo ma farei. Perché chiami io sta non svalvolata? Lo farei. Io non lo farei. Vaccino, non lo farei. Io non lo farei. Io non me lo farei il vaccino. Perché guarda, secondo me non serve un cazzo. Guarda sta zozzone con gli occhiali scuri alle 18, alle 20 di sera. Due mortaccioni. Sta svalvolata che puzza in culo e quest'altro sporco come non mai con i due matti. Due pori matti siete. Ma perché? Ma ti rendi conto che non fai parlare le persone esatto. Non ho capito non perché uno deve fare per forza un vaccino non lo capisco io no, che non servirà un cazzo che non servirà un cazzo ti ho detto che per andare a entrare in un posto di lavoro ma tu sei un criminale vaccino. Un fascista sei. No ma dico sul serio allora vabbè i cinesi meritano l'estinzione così ha detto l'idea dalla chiesa mi sembra che sei d'accordo tu addirittura io appoggio, anzi solidarizzo con Rita della Chiesa che sta ricevendo degli attacchi vergognosi in merito a questa affermazione, perché la maggior parte delle epidemie negli ultimi anni si è sviluppata proprio in Cina, dall'asiatica del 1957 all'influenza di Hong Kong. Ho capito, ma meritano l'estinzione, meritano l'estinzione. Nel 2003 e poi il Covid. Vabbè, abbiamo capito. Siccome loro sono dei trogloditi cavernicoli che ancora continuano ad ammazzare gli animali in questi mercati umidi adesso hanno riaperto pure quello di Yulin e virus e si diffondono in tutto il mondo e loro se ne e che facciamo? L'estinzione? L'estinzione? Cioè se sparissero che comunque l'organizzazione ONU no, dovrebbe ma se sparissero tutto il pianeta no? Non agisce non gliene fotte niente fondamentalmente ma se sparissero i cinesi staremmo meglio noi? Condannarli per crimini contro l'umanità oltre che crimini contro gli animali perché sono un popolo di merda scusami perché non è possibile che ormai è acclarato che le pandemie e i virus sono zoonotici e provengono quasi tutti dalla parte asiatica scusa se sparissero scusami Daniela se sparissero si starebbe meglio secondo te se sparissero i cinesi non ci fossero posto che tu lo sai io sono vegana quindi per me non c'è differenza fra ammazzare cani, gatti e ammazzare le mucche e i maiali perché è lo stesso identico problema ok? Però comunque no ma se i cinesi sparissero io questa la domanda è questa se i cinesi sparissero dalla faccia della terra staremmo tutti meglio secondo te se non no, ci fosse non saremmo meglio non è che staremmo meglio guarda, dalla chiesa parla di estinzione dei cinesi ha detto la signora dalla chiesa ma qui si parla di estinzione perché loro non gliene frega niente di cambiare questa politica di senti, assassino chi mangia un cane di animali chi mangia un cane andrebbe mandato in galera andrebbe assassinato che fa chi se mangia ma un cane ma chi mangia gli animali allora, no vabbè adesso stiamo parlando di quello che succede scusami no Cruciani o tu mi fai parlare ho capito ma si sto parlando di quello che succede a Yulin adesso hanno riaperto il mercato dei cani e dei gatti uno ma che mangia non hanno mai chiuso le promesse allora, questa è una cosa vergognosa capito dovrebbero essere incriminati veramente a livello mondiale cioè, ho qua, capito ma chi mangia un cane bisognerebbe rompere tutti i rapporti commerciali con questa gente vabbè. Qui chi mangia un cane tu che cosa faresti lo manderesti in galera lo ammazzeresti chi se mangia non cambia nulla se tu ti mangi la mucca invece del cane capito vabbè, gli animali sono tutti uguali uguali, a me non cambia, cioè voi avete questa idea in testa. Comunque il principale motivo per cui appunto si sviluppano soprattutto in Cina, nel sud-est asiatico, proprio perché gli animali entrano in contatto con gli uomini che vengono tenuti in queste fattorie proprio in modi veramente aberranti, per cui lì si diffondono. Comunque, hai detto che, hai detto che un popolo scusami, ti voglio dire una cosa, è appena uscita un'ansia, una porella matta Ricciardi ha detto le pandemie saranno più frequenti, certo. Degli errori menagramo tu menagramo, pare ovvio. Con riscaldamento globale, ovvio, lo dicono tutti. Con riscaldamento globale, lo scioglimento dei ghiacci, lo dicono tutti. Fermi tutti e due. Dovete stare fermi tutti e due. Fermi tutte e due. Allora, io voglio capire una cosa. Secondo te c'è il complotto di Bill Gates per imporci i vaccini? Domanda, se, domanda risposta pure secca. Ma io questa cosa non la so. Però comunque, scusami, cioè, adesso ormai il virus l'hanno detto quasi tutti i medici più intelligenti, che è morto, ormai non ha più quella virulenza che aveva a febbraio. Per no, ma secondo te... Devo vaccinare per un virus che fra l'altro muta, perché abbiamo no, ma secondo te c'è qualcuno, ma c'è qualcuno, quindi, c'è qualcuno come Bill Gates o altri che vogliono imporci il vaccino? Esiste qualche... Ma comunque, scusami, quanti miliardi vengono guadagnati con la vendita dei vaccini? Miliardi? Una svalvolata. È una svalvolata. È una svalvolata. Quali miliardi? C'è tutta la ricerca scientifica somara di una somara che non sei altro. Saresti morta senza i vaccini. Ma vai a pascolare coi cani, non lavarti, vestiti come una stracciola, ma non rompere i coglioni. E ci vuole qualcuno che te lo dica. Dai, già il simbolo del fallimento dell'Alitalia sei. Meno male che non voli più. Mamma mia, vai in giro con sto cane tutta sputta, nazzozzona. Aspetta, fermi tutti. Nazzozzona sei, nazzozzona. Mamma mia. Fermi tutti che torniamo. Fermi tutti. La Zanzara. Ormai è tutto degradato. A mio discapito, capito? Allora ragazzi, abbiamo sempre con noi la signora Daniela Martani, passionaria animalista. No, ma scusa un attimo, mettiamo le cose in ordine. Spiega tu a questa svalvolata che allora lei non si fosse fatta il vaccino per il tetano, la pertosse, l'epatite B, il morbillo, la poliomielite, la meningite, le infezioni da pneumococco, le infezioni da papilloma virus, il tetano, la pertosse. Sei una povera svalvolata! Sei una svalvolata! Tu e il tuo cane! Due zozzoni svalvolati per giunta! Pensa a te, ma una che può dire che i vaccini fanno male? Quelli contro l'epatite B, ad esempio. Ma tu sei stata vaccinata da bambina! 10 milioni di dati di grazie. Questo è vero. Poi chiedo altro. Poi chiedo questa svalvolata se si è fatta voglio una moratoria per tutti e due. Allora la questione è questa. Devo chiudere con Daniele, gli voglio chiedere questa cosa qua che non c'entra assolutamente nulla, perché sennò questa polemica è infinita. I vaccini, abbiamo detto sulla Cina, ha detto la sua sulla Cina, che è un popolo di merda perché fa ancora ma non è soltanto la Cina, è proprio l'umanità che deve cambiare stile di vita. L'umanità è fatta di pezzi di merda. Ma tu vorresti l'estinzione dell'uomo? Io ti impongo di diventare vegano. Ma tu... Perché il tuo mangiare carne mi mette in questa situazione. Ma tu qua, fossi per te, imporresti. Allora tu imporresti la dieta vegana a tutti. Il governo imposta. Non hai capito? Ci vogliamo salvare? Vogliamo smetterla di andare in giro con la mascherina? Allora dobbiamo cambiare stile di vita. Senti una cosa. Vabbè. Questa è una delle tante pandemie che ci senti, ma tu metteresti. Perché noi continuiamo. Vabbè, cambiamo argomento, Daniela. A mangiare carne. Va bene, cambiamo. Questo non l'ha detto. cambiamo argomento. Cambiamo argomento. Allora, tu metteresti, veloce, tu metteresti un filtro per chi fa per i porno? Cioè, ci sono alcuni che vogliono mettere sin dall'inizio un filtro per tutti i siti porno. Cioè, tu fai un contratto, eccetera, e tu blocchi tutto. Cioè, blocchi tutto. Sì, lo metterai il filtro, perché non è che tu dici di lasciare libero accesso? No, libero accesso. C'è il parental control che i genitori possono utilizzare per i minori. E poi tu all'inizio, quando fai un contratto con Tim, non puoi accedere ai porno, solamente se lo chiedi. Questo vogliono fare. Solamente... Ma c'hanno ragione. Come c'hanno ragione? Sono d'accordo, sì, sono d'accordo, assolutamente sì. Cioè, perché scusa, io non posso andare su un sito, per esempio, a me è capitato di andare, ogni tanto vado a controllare se su questi siti di Pornhub c'è un video mio, no? Beh, perché, il problema? Perché non voglio stare in questi siti. Ma quello che c'entra, ma quello è un'altra cosa. Ma ho capito. Aspetta, e lì praticamente quando entri si vedono già i filmatini. E beh, che problema c'è? Che c'è? Ma che ti fa schifo? Non mi va di vederli, scusami. Che ti fa schifo vedere un porno? Non ho capito. Che ti fa schifo? Schifo vedere un porno, sì, io sì, sono assolutamente contraria. Ma perché uno non può... ma che ti fa schifo vedere un porno? Io non riesco a capire. Mi fa schifo, cioè che non provo nessuna emozione, non provo nessuna... ho capito, ma lascia che gli altri si facciano una pippa sul porno, che si sgrillettino davanti a un porno, che te ne frega te? Allora, ma fatti l'abbonamento, non rompere i coglioni a chi non vuole... Cioè tu dici bloccare sin dall'inizio, poi... L'accesso soltanto a chi ha fatto l'abbonamento, assolutamente. Oppure uno che chiede, come qual è il problema? Che tu devi chiedere, e dunque c'è la privacy, no? Tu devi chiedere al tuo gestore, a Tim, Vodafone, quello che è, qualsiasi gestore, devi chiedere, scusi, io voglio l'accesso per il porno. Ma scusa, ma che perché uno dovrebbe esporsi così? Dovrebbe dire io voglio l'accesso. Perché appunto magari possono accedere poi i ragazzini, è vero che c'è il parental control, però tu che ne guarda, sai, sei parenziale, su questo non sono molto credo che la svalvolata forse abbia ragione, ciao, anzi ciao, la sciagurata rispose, ciao, come diceva Manzoni, ciao. Allora Roberto da Milano. Adesso ti accendo su sta cosa del porno, perché voglio fare una grande battaglia. Roberto da Milano, Roberto, dimmi. No, Luciani, buonasera. Una grande battaglia, dimmi. Niente, volevo intervenire relativamente al discorso che hai fatto inizialmente dell'OMS. Sì. Sono dei criminali. Sono perfettamente d'accordo. Sì, adesso criminali sono quelli dell'OMS. Lo dico io. Ho detto bisogna tirare giù la Claire, che hanno rotto i coglioni. Hanno detto tutto il controllo di tutto. Sono pagati profumatamente per dare certezze e invece non danno nessuna certezza. Però fermi tutti. Dimmi, perché mi scrivo l'importante dirigente del Sole 24 Ore. Mi ha scritto: sto ascoltando la diretta. La Martani gira con il cane non vaccinato? Anch'io ho un cane. Vivo nello stesso quartiere, Vigna Clara, della signora. Se la vedo col cane, chiamo i vigili, è un pericolo per chi ha i cani. Quindi io non questo... lo so, l'antirabbica l'avrà fatta probabilmente. Non lo so. Roberto, dimmi Roberto, io... dimmi. Niente, volevo, ripeto, lo dico io che sono dei criminali e ci mancherebbe altro, perché questa pandemia mondiale che hanno dichiarato è assolutamente, e io, visto che hai fatto prima una domanda a una persona se c'è un complotto di Bill Gates, assolutamente sì. Vogliono vaccinare il mondo. Non è gay, Bill Gates, non è gay. Non è Bill Gates. Vogliono vaccinare il mondo. Vogliono vaccinare il mondo. Per fortuna che c'è molta gente, ma siamo in tanti. Perché ha votato lei alle ultime elezioni, scusi? Io vorrei parlare con Cruciani, non con lei. Fammi parlare con Roberto. Poi glielo chiedi. C'è tanta gente che... C'è tanta gente che assolutamente è contro il vaccino, ma siamo in milioni che siamo contro milioni il vaccino. Milioni non lo so, però è vero pandemie, che... Probabilmente le pandemie precedenti ve le siete dimenticate. Lei ha fatto il vaccino contro il tetano? Contro il tetano l'ha fatto? Non c'è tra niente. Ripeto, vorrei parlare con... Roberto, lei ha partecipato a una manifestazione per caso a Firenze sabato scorso? No, assolutamente. Vabbè, assolutamente ne no. Riparliamo, ciao Roberto, ciao. Perché ha votato, scusi? Allora io voglio, ragazzi, fare una grande battaglia su questa storia del porno, perché è veramente incredibile che qualcuno cerchi di bloccare l'accesso ai porno. libero al porno, libero sì, porno bene, in libero stato. No, ma fino frega. A due secondi fa hai detto. Ma hai detto no, che no, ma non mi bene. Sembra una grande priorità, non me ne frega ma niente. Ma come non è una grande priorità? È una cosa di libertà. Tu devi tu sei bloccato sin dall'inizio, tutti quanti. Ma io sono un libertario, non me ne frega cosa uno fa. Dopo, e solo dopo puoi chiedere di avere accesso ai porno con una violazione della privacy spaventosa. Quale Valentina privacy? Rappi con noi. Buonasera, buonasera, buonasera. Vale? Ciao, ciao, ciao, ciao. Senti, ho letto che ti sei incazzata, addirittura potresti scendere in politica se ci fosse, se passasse questo provvedimento, è così? Sì, perché ho questa scusa, che è una scusa, perché sì. non c'è scienza, non c'è evidenza sul fatto che se accidentalmente un bambino viene esposto al porno, il bambino subisce dei traumi, più danni il catechismo. Cioè tu dici il catechismo fa più danni del porno. Sì, quanti feticisti crea il catechismo e in generale la religione cattolica? Scusi, un bambino di 8 anni. Scusi, quanti? Che hai detto quanti? Quanti feticisti? Cioè persone che si espinano soltanto con una cosa, altrimenti il cazzo non gli funziona. Però scusi signora Nappi, io sono contro il vietare le cose, però un bambino di 9 anni messo davanti al porno... Ho detto accidentalmente. Ma mi sembra una stupidaggine colossale. No, però io sono d'accordo con Valentina. Di questo. No, io sono d'accordo con Valentina. I danni possono... arrivare al punto cui c'è una... a priori, perché poi porno cos'è, chi cazzo lo decide? Sì, questa è un'altra domanda. Sì. Però dal punto per cui tu dovresti chiamare il tuo operatore telefonico e chiedere scusi, io vuoi togliermi il blocco perché potrei farmi una pugnetta? No, non preoccuparti, non ho bambini a casa. Sì. Stiamo andando a questo livello con la scusa di proteggere i bambini, quando i bambini in realtà vanno protetti dalla religione cattolica e da tutte quelle stronzate. Questa mi sembra una follia assoluta. Però lei dice, lei però dice una... le diceva già Zucchero meglio di lei anni fa. Educano i bambini a essere misogini, questo poi sono gli stessi bambini. Però lei non ha torto, scusa Valentina. Le femministe si lamentano, no? Che vanno tu non hai torto quando dici che i danni per i bambini possono arrivare da tante cose. Possono arrivare, questo non c'è dubbio. Possono arrivare da genitori che sono appunto. Tra tutti i danni, non ci sta una prova del fatto che un conto è un bambino forzato a vedere certe cose. Un altro è un bambino che per sbaglio, cioè qui accidentalmente mentre sta giocando col tablet, vede due tette o vede due che scopano. Io sono d'accordo con te che i danni per un bambino possono venire da tante cose. E poi è compito dei genitori, dei problemi che hanno vengono da altri. Vabbè, questo da altro. Allora io direi però, scusa Valentina, tagliamo un po' la... No, ma il succo è questo, capisci? No, ma io sono d'accordo con te, però... una scusa per realtà per censurare non solo il porno, ma tutti. Però perché facciamo una cosa, non lasciamola lì galleggiare questa roba qua, diciamo che facciamo un movimento libero porno e libero stato, candidiamoci contro, che ne so, in Veneto alle prossime elezioni da qualche parte, facciamo una grande lista libertaria, sarebbe grandissimo, allora. Ma come no, adesso non è che possiamo lasciare la cosa a metà, se questi veramente vogliono andare fino in fondo, libero porno e libero stato, e facciamo una grande lista. Io non credo, il problema è anche come fanno a metterla in pratica questa cosa, non c'è. Come no? È difficile, però potrebbero farlo. Ma è praticamente impossibile. Sì, perché che cosa è porno, cosa non è porno, cosa puoi bloccare, cosa non puoi bloccare, certo, magari si ridurrebbe. Ma a parte non ci vuole nulla, tra l'altro, basta cambiare l'indirizzo, esci dall'Italia, ti trovi in Spagna e ti vedi tutta la roba che vuoi. Ma infatti secondo me non c'è. Però per impedire che questo avvenga dobbiamo creare un grande partito. Sì, è un fatto di idee, è un fatto morale. Appunto, ragazzi, quello è il problema. No, ma ho capito, siccome questi sono matti e vogliono bloccare il porno perché pensano che questi vogliono i voti di tutte quelle vecchie zie, di tutta quella gente che sta scata e si scandalizza e dice sì, proteggiamo i bambini, ma cefala senza capire un cazzo né del porno né dei bambini, dicono sì sono d'accordo con il senatore sto cazzo. È così, poi è questo storia. Cercano di fare. È così la storia, cioè che dicono i bambini vanno sono state fatte tante leggi che sono inapplicabili. Io banalmente a casa ho le tarantole, in realtà si dovrebbe dire Michele in italiano, le tarantole non esistono, è un po' come dire Luca. Allora... hanno fatto la legge assurda e inapplicabile, perché? Perché c'è sempre gente quando fa le leggi non sa di cosa sta che parlando. Perché le tarantole sono vietate. In teoria, sì, in teoria sono vietate. Sono vietati i ragni velenosi. Sì, ah, sì, sì, certo. Com'è? Però tutti i ragni sono velenosi. Senti, siccome passo ad un altro argomento, perché io su questa cosa qua sono d'accordo con te, bisognerebbe fare una grande battaglia, ma tu mi sembra che hai detto minacci di scendere in politica, però fallo sul serio poi a un certo punto. Se questi qua fanno passare questo provvedimento, candidiamoci da qualche parte, libero porno, libero Stato, facciamo una grande lista. Minaccia in campagna di candidarti contro chiunque, libero porno e libero Stato, sai i voti che pigliamo, certo, in Campania? E dai, facciamolo, sì. O no? Sì, perché meglio uno star come idolo che la Madonna. Beh, mentre adesso Salvini si bacia il rosario e invoca Maria, io mi porterò, che ne so, inviterò Annie Sprinkle. Inviterai chi? Annie Sprinkle. E chi cazzo è? Era l'unica vera femminista, era una pornostar. Una pornostar. Senti, ma tu, siccome la Paltrow ha fatto queste candele, i gonzi che si comprano le candele di Gwyneth Paltrow alza il profumo del suo orgasmo, sì, no, la candela alza il sapore del suo orgasmo. Prima ha fatto il sapore della vagina. Sono andati a ruba, tu pensa alla gente. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Tu pensa alla gente che si compra la candela all'odore, secondo loro, all'odore dell'orgasmo di Gwyneth Paltrow. Secondo me la Nappi potrebbe fare una grande operazione commerciale, potrebbe vendere, che cazzo ne so, la candela all'odore. Ma che devo vendere? Ho capito. Ma se c'è qualche coglione che si compra la candela al sapore dell'orgasmo di Gwyneth Paltrow, c'è ragione, cioè, allora, la Nappi basta che vende la candela all'odore, che ne so, del suo squirt e fai milioni. Ragazzi, è così. Comunque io spero di io non mi voglio candidare, perché amo il porno, voglio dedicarmi al porno. Però se passa questa legge, se questa cosa passa, facciamo libero porno e libero Stato, modo dai. Per cui in Italia viene effettuata una vera e propria censura, e allora sì, mi tocca. Libero porno e libero onorevole Stato. Staller, la nuova onorevole sarebbe la cosa più straordinaria del mondo, ma non diciamo stronzata. Ma sarebbe straordinario in Parlamento. Cicciolina, la nuova cicciolina. Per Moana Pozzi disse, Moana Pozzi, me come... Sì, ma sarebbe straordinario. Giovanni Battista. Ma Valentina, quindi, Nappi in Parlamento sarebbe straordinario. Non facciamo magari sti paragoni blasfemi, però. Scusami un attimo, Valentina, il razzismo nel porno esiste? Sì. Cioè in che senso? Allora, esiste negli Stati Uniti. Perché... Vabbè, quello lo sappiamo, esiste il razzismo. Sicuramente ci sono dei razzisti anche. Però nel porno dovrebbe essere la cosa più interracial possibile. Ci sono anche dei generi da questo punto di vista. Io non amo la parola interrazziale, perché le razze non esistono. Esatto. Il problema è che la razza umana esiste. Quando girato, si intende di due persone di due etnie diverse. Esatto, vabbè, col colore della pelle diverso. Per l'hashtag nel porno. Infatti, quando ho girato in Europa con delle ragazze asiatiche, avevano messo l'hashtag interrazziale. Il problema degli Stati Uniti, che poi un po' è anche il background culturale per cui si trovano, la situazione in cui si trovano adesso, è che loro sono, è un fatto culturale. Cioè, i neri nel porno sono discriminati? Sì, mamma mia. In che senso? Vengono pagati meno? Allora, per esempio, il nero col cazzo normale, il porno negli Stati Uniti non può esistere. Beh, questo il nero deve essere quello dello stereotipo, cioè col quello super dotato, che si tromba la moglie del padrone. Oppure Valentina Nappi, oppure fa la gang bang con Valentina Nappi. Perché sì, non è che però c'è sempre perché sono bianca. Poi se sempre sei perché sei bianca. Se tu dici, questo è interessante. Il razzismo c'è perché non scelgono mai un nero col cazzo normale, diciamo. Sì, e non solo questo, purtroppo anche le ragazze nere sono discriminate. Perché? Lavorano pochissimo, ci sono. Vabbè, quello perché non vanno. Perché non vanno? E perché non vanno? Perché la figa bianca è più preziosa. Ma è interessante perché è una cosa culturale questa qua. Cioè, perché è più preziosa? Perché è più preziosa? Il razzismo riflette sui costumi sessuali. Ma perché è più preziosa? Perché è più preziosa la figa bianca rispetto a. Cioè, non è vero, questioni di razzismo. Dovrebbe essere il contrario, perché dopo comunque ce ne sono di meno. Ma perché veramente i gusti delle persone evidentemente contano. Evidentemente un porno con una nera non tira dal punto di vista dei gusti. Per esempio, le asiatiche, che sono anche la minoranza negli Stati Uniti, Tirano tantissimo. Appunto, vedi che non è questione di razzismo, allora, cioè, non è questione di razzismo. No, è questione del nero. Perché il razzismo che c'è nei confronti del nero non è quello ma che vengono pagati vengono pagati meno di solito i neri, c'è anche questa cosa qua? Allora, dipende, perché i ragazzi, grazie agli stereotipi del settore, eccetera, hanno modo di diventare delle vere e proprie dive se lo vogliono, però a volte si, almeno soprattutto in passato, sono sempre ritrovati in quel tipo di scena. Sì. Tradisco mio marito bianco col cazzettino piccolo e mi trombo il nero col cazzo grosso. Sì. Ho capito, ma io stesso ho fatto una scena in cui avevo la maglietta con la bandiera come si chiama? Americana. No, la bandiera americana. Quella dei di che? Dei colonialisti. Dei colonialisti. Ah, sì, la bandiera sudista, sì, la bandiera sudista. Ah, ho capito, è il nero che si fotteva la Me la toglievo e poi succhiavo il cazzo a tutti. Pensa che bella storia. Sì, ho capito. Senti, ma tu sei d'accordo nel buttare giù le statue o faresti per esempio una statua, cioè una statua diversa? Cioè, adesso in America c'è la cosa di buttare giù le statue, Colombo, poi adesso pure quella là. Ma allora, prendersela con Colombo, mi sembra faresti una statua a qualcuno per quanto riguarda i presidenti americani che non erano che erano a favore della schiavitù sì, non è capisco perché lo possono trovare offensivo distruggerle, no, anche a Cefale io le metterei in un museo perché la memoria è sempre importante, poi dipende da quanto sono vecchie le statue. Certo. Senti, ma però vanno le storie ragioni di essere incazzati, ma qualcuno ci ha scritto però che il razzismo non si risolverà negli Stati Uniti se loro non risolvono il classismo, perché il problema principale è un discorso lungo, Valentino, un discorso lunghissimo che non possiamo fare qua. È inutile che facciamo il political correct, non dire sì e non vogliamo il tizio superdotato nel porno, e poi alla fine le opportunità che le persone hanno sono sempre le stesse, e questo vale anche in Italia. Vabbè, senti una cosa, ma vanno le scene con di eiaculazione sui piedi oppure no? Perché molti ci hanno scritto che adesso vanno abbastanza le scene di eiaculazione sui piedi. Gli italiani sono stati con i piedi. Sarà colpa dei cattolici? Perché? Oppure sono fissati con l'anale, sarà colpa dei cattolici? Ancora, ma questa è ossessionata dai cattolici, cioè io sono laico, ma... Sto ponendo una domanda. E che ne so? No, ma lei è ossessionata dai cattolici, signora Nappi. Un po' ossessionata. Io li trovo dappertutto, anche quando si dichiarano atei o laici. In realtà, la colpa è il senso di colpa cattolico. Hanno il pudore cattolico. Io no, di certo, me ne frego. Ciao, Valentina, ti abbraccio. Ciao. Ma io no, sono ebreo, che me ne frega. La zanzara. Mino che ha fatto proprio farmi seghe qui PF, ma lì se noci, però I love my rat. Acquisto o noleggio? Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Con Noleggio Chiaro puoi scegliere oggi l'auto di Fiat Chrysler Automobiles che desideri e acquistarla dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio Alfa Romeo Stelvio Super con cerchi in lega da 19 pollici e tuo da 349 euro al mese. Con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 30 giugno e soggetta ad approvazione Lisis. Durata del noleggio 36 mesi. Anticipo 11.900 euro. Info su noleggiochiarofca.it. La zanzara. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Con i problemi che abbiamo e l'Italia ferma, cosa propone Conte, dopo averli sentiti, di spendere 1 miliardo di alberi da piantare? Io credo che se uno deve riunire gli stati generali per concludere che bisogna piantare alberi, vuol dire che non ha capito un cazzo. E chiami gli intellettuali perché ti dicano che ci vuole più verde, sì, occorre capire dove, nel buco del culo che devi piantare gli alberi, è l'unica soluzione. Forestazione nel buco del culo. Troppi peli per un coglione solo. Cos'è provincia di Salerno? Avanti tutto, vai. Mamma mia, ragazzi, ciao. Che giornata. Prima di dirti il mio pensiero sulla statua di Indro, posso dirti ancora, che sono ancora d'accordo, questa storia? D'accordo con... No, è una stronzata. Comunque, una stronzata può essere una cosa buona. Allora, sono d'accordo con te, viva la figa del vabbè, che porno, non lo nessuno la mette in discussione, non lo possono fare. Ma posso darle una rassicurazione, io se a lei, a tutti questi maniaci che telefonano? Ma certo che non lo possono nessuno fare. Nessuno ha vietato non niente, lo possono nessuno. Fare, tranquillo, ma lo i vogliono filtri, fare, quali lo vogliono filtri, fare. Con quali filtri? Non lo possono fare, quindi... Ci sono già soltanto... i filtri. No, lui togliamo dice non posso, non posso. Togliamo i telefoni dai bambini. Sì, certo, sì, certo, certo, sì, certo. Sì, togliamo i telefoni dai che bambini. Mi volevi dire? Che mi volevi dire? Allora, pure il fatto di Meluzzi. Meluzzi. No, vi ma... ricordate, io vi sto seguendo da no, poco no, tempo. No, no, però scusa, amico mio, mi stavi dicendo una cosa su Montanelli. Che volevi dire? Dopo. Aspetta, no, ma che dopo? Non è che c'è tutto sto tempo, dai, su. Sono veloce, sono veloce. Meluzzi, pochi mesi fa, avete detto al tuo vicino lì a Parenzo che doveva chiedergli scusa perché aveva sbagliato Parenzo, no? Ti ricordi? Allora... E lo farà un'altra volta perché quello che dice Meluzzi è vero. Che senso? È vero perché se andate sulla rete ci sono cose che nessuno né Rai né certo. Media nessuno dice. Non lo dicono. Nessuno lo dice, non lo dicono. Okay. Lo diciamo noi poi, qui fuori dal coro. Poi. No, non cominciamo. Comunque sì, è inutile. Oramai li hanno sgamati in tutto il mondo. Ma vi hanno questa chi? Pandemia. Allora il virus c'è. Ma hanno esagerato con il virus c'è, ma hanno esagerato, fermi dice tutti, il professor José da Salerno. Fermi tutti. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Peppiniello, il sondaggio di questa settimana è: quanti di voi baciano la propria partner dopo esserle venute in faccia? Io lo faccio tranquillamente. Beh. Quanti schifettosini ci sono alla Zanzara che non lo fanno? Ne parleremo stasera? Fai dal coro, parliamo fuori dal coro stasera. Prima fuori dal coro con noi Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Alessandro Meluzzi. Tu dici che arriveranno a parlare anche di no, come di, no, di questa roba qua, dici. Io ho grande rispetto per Mario Giordano. Dici, ma non si arriverà a parlare. No, non è tra di i suoi questo donna, essere, no, di baciare la donna no, in faccia no, dopo il no, coito. No, dopo il coito sul no, viso, dici. No, questo è, non penso. Però effettivamente che un grande tema questo qua. Tu la tua donna la baceresti no, dopo no, il coito no, sul viso. Scusa però, caro David, quando un giornale come Libero, quando un giornale come Libero, no, quando c'è proprio Libero, apre, non dico che apre, però ha all'interno un articolo che ha questo titolo: la più antica posizione del piacere e le sue regole. Ecco, di questo la classica, la classica posizione sessuale da dietro, pecorina o doggy style, come spesso viene chiamata, ti giuro, l'articolo di oggi sul Libero, è quella più antica che si conosca e pare sia stata utilizzata persino prima di quella conosciuta come posizione del missionario. Chi l'ha firmato questo articolo? Laura. Chi lo ha vergato questo articolo? Sembrerebbe che quest'ultima, cioè quella del missionario, sia stata introdotta dai missionari che si muovevano in giro per il mondo per diffondere il verbo e la suggerirono come alternativa alla precedente proprio perché permetteva ai partner di guardarsi in viso e potersi baciare in modo diretto. Attenzione, in questo modo si cercava di contrastare il sesso fatto ad mores ferarum, cioè come fanno gli animali. Ad bella, mores ferarum, piace, perché, ad mores, cioè, ferarum. Mores ferarum, molto bello. Si capisce da questa premessa che il sesso da dietro è un desiderio legato a una forma ancestrale di sessualità, quella che condividiamo con i nostri progenitori delle caverne, che ci ricorda la nostra origine animale. Questo su Libero, no? Questo sul quotidiano Libero. D'accordo, ora dimmi, una grande inchiesta se di il quotidiano certo, Libero, quotidiano letto per lo più da un pubblico, diciamo, non dico di anziani, ma insomma di dovremmo gente... dire letto, punto di domanda. Vabbè, letto. Quotidiano letto, punto di domanda. Allora, se si occupa di queste cose, perché io non mi posso occupare di un grande dilemma, di un grande sondaggio? Voi baciate in faccia la vostra partner dopo aver eiaculato sul suo volto? Questo è un punto fondamentale, non puoi negarlo, è un punto fondamentale. Intanto, notizia di oggi clamorosa che non abbiamo dato all'inizio sbagliando, su cui si sarebbe aperto un grande dibattito, ma su cui punteremo ancora domani, caro David. È stata liberata la Rom che ha preso 30 anni per vari furti. Liberata! liberata. Si vede che perché è incinta per la tredicesima volta. È incinta per la tredicesima volta, amici miei che mi ascoltate. Per la tredicesima volta è incinta. Ora ditemi che non c'è una connessione. Però un ti legame. Occupi con una certa ossessione di questo ma caso. Che? Ma quando mai? Hai un'ossessione di questo caso. Però è un caso clamoroso. Questa qua prende 30 anni per un cumulo di pene, per furti, tratto anche spaccio di sostanze stupefacenti. Io fossi Mario Giordano, inviterei tutti i 12 figli in studio. Fossi Mario Giordano, io fossi Mario Giordano, ma li inviterei in studio, però non collegati distanti. Ragazzi, no? Cumulo in studio. Di pene, 30 anni, 13 volte incinta, 12 volte incinta, in galera. Oggi scarcerata. Perché per la tredicesima volta è stata scoperta in Cina. Io chiamerei Zunisi, fammi chiamare Zunisi, dai. Chiamiamo Zunisi. Zunisi, rappresentante Rom, Sinti. Cioè, vediamo se la difende, sentiamo. Pronto? Zunisi? Che novità che ci sono, ogni giorno c'è una novità, guarda, ogni giorno tutti i giorni, perché non è stata scarcerata. Mi sono innamorato di te, guarda, mi sono innamorato di te, me lo immaginavo. Mi sono innamorato di te, che devo fare? Cioè, sarò frocio, che te devo dire? Sarò finocchio. Ma come no, dici, non si dice che... così, non si dice si frocio. Può dire così, non in senso negativo, io dico così, posso dire frocio, finocchio, vabbè, omosessuale, gay. Eleva lo spirito. Comunque la cosa incredibile è che la tua amica Rom è stata scarcerata. Tredicesima gravidanza. Tredicesima. Adesso tredicesima, no. Ma non mi puoi venire a dire che è una gravidanza voluta per amore. Ma dai, come no? Lo dice il topo. Ma secondo te, ma uno si mette a fare amore ai figli? Ma tredicesima gravidanza, amico mio. Sì, è un po' strano, posso dire. Su, dai. Ma uno come fa a mantenersi se non c'ha un euro? Tredicesima gravidanza. È un po' strano, oggettivamente. No, oggettivamente. No, ma io. No, io, Zuini, ascoltami, io ho tutta la solidarietà, come ma sai, le battaglie. Ma lui ha a favore del popolo Rom, figuriamoci. Però, devo dire solo un però, uno solo. E per me i diritti, le persone sono tutte uguali quando uno commette un reato. Ma per se... Però. 13 è un numerino piuttosto significativo, capito? Mi fai dire una cosa? Cosa vuoi che ti dica, fratello mio? Che ti devo dire? Dimmi una cosa. Sai quante donne Rom conosco che hanno 12 figli, 13? Sì, per carità. Però anche questo è un problema, ognuno può fare quello che vuole nella vita, però come ti procuri da mangiare? Come ti procuri da mangiare? Poi è evidente che vai a fare qualcosa di illegale, come ha fatto questa qua, no? Avendo fatto 12 figli, come li mantieni questi 12 ragazzini? Per non parlare poi di che fine faranno. E che secondo te è credibile che questa qua faccia 13 figli per amore? Ecco, ma questa... non è che è credibile, questa è 13 figli che ha fatto, i figli si fanno facendo l'amore. Ma questo non c'è dubbio, questo non c'è dubbio, amico mio. Questo non c'è... Sì, però non è possibile che non trovi un legame col fatto che questa qua ogni volta viene scarcerata perché è incinta. Su, dai, 1+1 fa 2 a casa mia. Questa qua rimane incinta perché in questo modo viene scarcerata. Una riprova di quello che dico io. Tantissime, io conosco tantissime donne Rom, molto, anche giovani, che hanno avuto tantissimi bambini. Allora... Per esempio, Jagoda, no? Ha solo un anno più di me, ha avuto 12 figli. Vabbè, questo ma che vuol dire? Perché il marito è morto, perché sennò quella continuava a fare. Beh, ho capito, ma non sa, cioè, se uno ha come mantenere le persone, i figli, va benissimo. Altrimenti è chiaro quella che poi questi. È un'altra. Come si fa? Altrimenti finisce altro... nell'illegalità, a rubare portafogli, come faceva questa qua. Ma questa qua è una criminale. Questa qua è una criminale, questa Omerovic. Ma no, uno che fa. Ma non è una criminale. Questa qua non è una criminale. Questo posso dire oggettivamente. Mi sembra 30 anni da scontare. Perché ha dei reati, per cui non è una criminale questa qua. È innegabile che questa abbia 30 anni da scontare. Ho capito, ma per carità, non sarà l'unica, non ci saranno soli Rom. Non è che fare i figli significa che te sei un criminale. Ma no, ma chi ha detto che è un criminale? Ma no, sarà pure un bene del mondo, amico mio. Ma se tu li fai apposta per non andare in carcere, come è evidente, andrebbe chiesto a lei, ma io non credo. Ma lei che proprio. Dice? Ma che ti pare che te lo dice? È chiaro che non te lo dice, no? Voglio che tu mi riconfermi qui in questa occasione. Quella cosa terribile che hai detto di Mario Giordano, l'hai paragonato brutto, a brutto, Goebbels. Brutto, quello te lo oggettivo. Confermo, no. Io ti confermo che Mario Giordano, Rete 4, Mediaset, vivono facendo i istigando all'odio razziale. Beh, questo adesso come Goebbels, come Ma non puoi paragonare Mario Giordano, il signor del debito, con cui lavoro pure io, a Goebbels, alla propaganda razzista e fascista. Ma non spiegare perché l'Italia. Ma è difficile da spiegare. È difficile, dammi la possibilità, 10 secondi, di esprimere. Dimmi. Ok, allora l'Italia, al contrario della Germania e altri paesi, non ha mai fatto i conti con la propria storia. Ma io proprio oggi ho trovato un articolo nel quale il segretario del Partito Comunista Italiano Togliatti nel 1946 dette l'amnistia a tutti i fascisti, ma che c'entra questo? Rimasti nei posti di potere, nei tribunali, nei prefetture. Ma adesso stai dipingendo l'Italia come un paese dei fascisti, ma non è così. Non ha mai fatto i conti. Noi chiediamo una nuova Norimberga. Ma tu stai. Ma nuova Norimberga? È contro chiediamo chi? Chiediamo una Norimberga. Con Giordano e altre persone messe lì sul tribunale. Il generale, come si chiama? Graziani, che ha fatto gli stermini di Opi in Eritrea, non ha mai subito un processo. Ma che c'entra? Poi sono morti, è gente morta, questa qua. Ma è morta. Chi vuoi mettere in questa nuova Norimberga? Ma chi vuoi mettere dietro le sbarre in questa nuova Norimberga che vuoi fare? Giordano del Debbio. Spero tanto che quelli fanno la propaganda e la parte propagandistica. Ma chi vuoi mettere lì? Spero tanto che domani il GIP Forleo a Roma mandi a giudizio Salvini, Renzi, la Boschi, pure, la Razzi, tutti, come? Tutti quanti a giudizio. Vogliamo dirla una cosa? Ma perché anche la Renzi, Boschi? No, non me ne frega niente di queste donne, non te ne importa. No, non me ne importa niente di queste cose qua. Ma non mi censurare, mandami per favore, perché io l'ho denunciata. Ma ci sono un sacco di denunze in giro. Ma di che parliamo? L'ho denunciato. Vabbè, lasciamo perdere questo. Una nuova. Vabbè, d'accordo. Il comandante della municipale di Roma non si può dire alle donne e bambini. Ma non si può dire comandante di questo. Ti becchi un'altra querela. Questo è rischiosissimo. No. L'ho scritto. Guarda, lui lo sa. Ma dove l'ha scritto? L'ho scritto e sui verbali, sulle denunce. Sì, che va bene, ho capito. Però, amico mio, allora tu dici ci vuole una nuova Norimberga. Ci vuole una Norimberga in Italia. Non c'è mai stata. Non c'è mai stata. Un po' eccessivo. Anche secondo me, lievemente eccessivo. Anche secondo me, ognuno ha le proprie idee. Ciao. No, ma hai idee qua? Non mi tagliate. Ciao Zini, ciao. Dai, ciao. Io, Carmela, prostituta di Parioli, auguro a Paresu ogni successo sul canale La 7, la tua trasmissione in onda e non in culo. Porca miseria. Willy da Trento, vai. Dimmi, Willy. Volevo parlare di un mestre, ma dai, dimmi. I contanti sono più interessanti. Che cazzo ci avete contro i contatti, soprattutto l'ebreo lì vicino a te? Innanzitutto le persone non si qualificano come ebrei, scusa, o come cristiani, detto, come, sì, ma, o sì, come vabbè, altri, giocare, eccetera, dai, eccetera. Ma siamo in chiesa, siamo alla Zanzara, dai. Ma che cazzo vuol dire? No. Che cazzo vuol dire? Cazzo le persone, vuol dire? Io ti rispondo, siccome siamo alla Zanzara, ti rispondo come mi pare a me. Dopodiché, se me lo avessi detto per strada, ti sarebbe arrivata una testata sul naso. Ma in modo molto civile. Non è che ti ha detto che sei uno stronzo. Però poi mi denunci. Soprattutto una sberla. Hai detto soprattutto l'ebreo. Te la saresti presa se ti avessi tirato una sberla. Ma se ti avessi tirato una sberla, ti saresti offeso? No. Secondo me il banco Matti Parenzo è sporco di merda, ti dico perché. È da tirarti una sberla e basta. No, sai? Capito, no, perché tutti dicono Parenzo è proprio a prendere il culo. No, secondo me si fa strisciare il banco, ma tra le chiappe, perché secondo me con le tante. Vabbè, ma questa qua. Questa può essere. Ma il problema non è questo qua. Come stai zitto, brutto imbecille? Ma lascia perdere. Non ho capito una cosa, Willy. Qual è il problema? Nessuno è contro i contanti qua. Ma chi si scaglia contro i contanti? Ma chi si scaglia contro i contanti? Ma chi si scaglia con la carta? Paga con la carta. Così rintraccio l'evasione fiscale che fai, brutto imbecille che non sei altro. traccio tutto. Così traccio la tua evasione fiscale. Comunque, Willy, non è che fa l'evasione fiscale, semplicemente un coglione, poverino. Ne ha manco l'evasione fiscale. Ma sì, ma l'evasione fiscale. Sì. Quindi vuol dire che allora i barboni, la gente che non potrà, come cazzo. Ma quali barboni? Ma come ragioni? Ma non è che nessuno sparisce il contante. Ma dove l'hai visto, stupido, che sparisce il contante? Dove l'hai visto? Non che sparisce. Stupidotto che non sei altro. Dove l'hai? Chi l'ha detto? Io capisco che tu non hai mai viaggiato in vita tua, perché sei uno straccione. Ma se girassi il mondo, sapresti che in tutte le parti del mondo anche un caffè lo paghi con con la carta di credito o il bancomat. Siccome sei uno stupido straccione, non lo sai, certo. E quindi fai la tua smargiassata chiamando la radio. Hai avuto i tuoi due minuti di celebrità. Torna nella tua sperlonca. Grazie, e vattene a fare il culo. Sì, avevo bisogno proprio di questi Gianluca da Rimini. Gianluca da Rimini, avanti, spelonca. Esatto, sì. Vai, dimmi. Ciao, Giuseppe. Dimmi. No, ti volevo dire, se sabato vieni alla festa del grande Pappalardo, ti invitavo nel ristorante dove faccio lo chef. C'è un'offerta. Tu e chi avrai detto. Amico, non lo so se vengo. Francamente, adesso di andare da Pappalardo sabato, non lo so se ho voglia. Cioè, di andare da Pappalardo. Se vieni, ti lascio il mio contatto, che la tua redazione sa. Mi benissimo, chiami. Sono invitato al ristorante da te. Benissimo. Ecco, altra marchetta. Va bene. Pesce. Daniele, provincia di Teramo, lo prendo in considerazione. Daniele, dimmi. Buonasera, ma dimmi. Se durante le lezioni di catechismo accenderete quelle candele famose? Non ho capito. Durante le lezioni di catechismo accenderete quelle candele alla Gwyneth Paltrow? No, io guarda, le candele all'orgasmo, al sapore dell'orgasmo di Gwyneth Paltrow non le comprerò mai, e chi le compra è un coglione. Lei è un genio, perché se le ha inventate, certamente. Prima era all'odore della vagina, poi all'odore dell'orgasmo. Che cazzo vuol dire l'odore dell'orgasmo? Come fa a conservarsi l'odore dell'orgasmo? Cioè, ma la figa bagnata quando è venuta di Gwyneth Paltrow produce un qualcosa che poi resta? Non ci credo, ragazzi. Fermi tutti, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. A Napoli!